se esplodo. Devo gridare, sai, ogni emozione. Zero è la mia età, non ho pudore. Da un'ora questa coda, nonno, mi annoio. C'è quella cassiera con i riccioli d'oro. Esco ed eccomi qua, in Piazza Grande. Aria di festival, splende l'estate. Sono zero, guardo il cielo. Sono solamente vivo, tocco, vedo, piango, rido, e io sono ricco. Vado a spasso per Locarno, quale portento, sento il sale del mio mare dentro al vento. Plaza me parece la de mi pueblo. Voglio l'amore ma solo se canta. Voglio la verità, vita